Italia in controluce. Buon pomeriggio, 13, 35 minuti e 16 secondi se ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore. Questa è Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. A Milano la presenza dell'Andrangheta è così capillare da essere avvertita come normale. Lo si legge nell'ultima ordinanza di pochi giorni fa di custodia cautelare che ha portato in carcere 35 persone sotto al Duomo. Tra i vari aspetti toccati anche il pizzo, a locali come i venditori ambulanti. E questo è il tema dell'inchiesta di Storiacce di Raffaella Calande che ritroverete anche sabato alle 13.15. Nella Milano dell'Andrangheta la tassa del pizzo vale tanto per le discoteche quanto per i venditori ambulanti di panini. Nella Milano dell'Andrangheta ci si interessa tanto per una multinazionale come la TNT quanto per i negozi da aprire nelle stazioni della metro. Nella Milano dell'Andrangheta chi viene minacciato resta zitto, proprio come a Reggio Calabria. E proprio come nei feudi di 'Ndrangheta ci sono tariffe e regole e chi sgarra viene punito. Anche in questo caso abbiamo la presenza di imprenditori radicati in Lombardia che erano invece alla dipendenza e gli affiliati alla cosca di Romeo. È un'andrangheta presente in modo capillare in alcuni quartieri di Milano, quella tratteggiata dall'ultima indagine della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Ilda Boccassini, che ha portato all'arresto di 35 persone. Un'andrangheta che si spartisce bocconi milionari, ma che anche in questo caso, quando deve risolvere un problema, torna alla casa madre. La TNT per esempio era già nelle mani della famiglia Flachi e anche in questo caso, nel momento in cui anche due gruppi facenti capo a locali diverse entrano in contrasto e la Calabria cerca e dirime eventuali dissapori. I grossi affari come una multinazionale, ma anche i negozi da aprire nelle nuove stazioni della metro, i videopoker per i bar, come i camion con i panini dopo la partita, perché anche questo è controllo del territorio, anche questo ha permesso all'Andrangheta di diventare una presenza così profonda, scrive il GIP Giuseppe Gennari nell'ordinanza, da essere avvertita come normale. Così normale diventa pagare una percentuale sugli incassi sulle serate, assumere per la security le persone imposte o arrivare a spaccarsi la tibia per ricevere dall'assicurazione i soldi da dare ai clan. Potete anche ammazzarmi, mi fate un favore, sbotta disperato un imprenditore, mentre un altro per 24 mesi versa 150 euro a sera. È da anni che paga 500 euro a settimana, racconta un altro in un'intercettazione, mentre in locali notturni il pizzo spesso si declina nell'imporre proprie bodyguard, altrimenti, dicono chiaro e tondo, qui salta tutto. Comasina, Città Studi, Bovisa, i quartieri milanesi dove quest'ultima inchiesta ha ricostruito una legge del pizzo molto radicata. Gianfranco Pisani è il comandante del GICO della Guardia di Finanza. Questo pizzo veniva estorto a diverse categorie che andava dai cosiddetti paninari, ai posteggiatori, ai locali pubblici. In questo caso veniva imposto mediante l'imposizione appunto del servizio di security, tanto per citare un ambientale in cui uno degli estorti dice: ma questa è una tangente, e l'estorsore dice: ma certo che è una tangente, come a dire, ancora non hai capito di che stiamo parlando. Nelle piazze di 'Ndrangheta City, certe vie, come la centrale Corso Como, costano 200 euro per un venditore di porchetta notturna e se la serata frutta 1000 si versano 300 allo zio, alias il boss dei Flachi, noto casato della Milano criminale. Queste sono le regole e i prezzi ricostruiti dalle intercettazioni, ma se qualcosa va storto interviene l'associazione, dicono, soprattutto per intimorire, mandare segnali o dire chiaro e tondo che gli facciamo saltare il locale, si legge nelle conversazioni, se uno spiffera qualcosa in questura o se non paga. Capita così che a Milano, proprio come a Reggio Calabria, le minacce tappino la bocca a molti, nonostante codici etici e regole di categoria, riflette Luca Squeri, presidente della Commissione Sicurezza e Legalità di Confcommercio. Milano, la Lombardia è diciamo una realtà sociale forte, ricca e sana. Ha tutte le carte in regola per reagire e contrastare questi fenomeni criminali. Le l'esistenza di un racket. Era un problema a voi noto oppure no? Gli scontri, devo dire la verità, non se ne avevano. Segnali che ci fossero strutture di questo tipo ce n'erano. Locali che magari vengono così incendiati con la tannica di benzina, che è un classico esempio di avviso criminale, no? Ma secondo lei come si potrebbe, diciamo, favorire il meccanismo virtuoso di un aumento delle denunce? Sia la magistratura che le forze dell'ordine che gli operatori commerciali facciano sentire la propria presenza. Noi abbiamo come associazione di categoria inseriti negli statuti l'obbligo di denuncia, l'espulsione piuttosto che la sospensione se non si denuncia, però questi sono, diciamo, strumenti che rispetto a chi ti terrorizza non è che abbiano molto efficacia, diciamocelo. Davanti a questi ultimi dati però, ecco, si ha l'impressione che non ci si riesca a trasmettere questo tipo di messaggio, se davanti a numerosi casi di riscossioni, di racket, di violenze, di minacce, non ci sono state denunce. La prima sensazione che ho è che si parli proprio di esercizi molto particolari, cioè i chioschi notturni sono esercizi che hanno anche così una tipologia di presenze appunto particolare, non è un fenomeno generalizzato, insomma. Io, se voi mi chiedete se nelle vie di Milano l'estorsione impazza, io dico no. Esiste, ne abbiamo una prova, anche a Milano ci sono zone proprio che sono state, diciamo, capillarmente occupate, non c'è nulla da minimizzare, anzi c'è da essere molto preoccupati, ci vuole un gioco di squadra, oltre a un dovere morale etico c'è proprio una convenienza di carattere sociale, economica, a mettere tutti il massimo impegno per contrastare questo tipo di attività. Se la Camera di Commercio milanese ha stimato in 3 miliardi e mezzo i costi della malavita in media in tutta Italia, è la Confcommercio a calcolare in 3.000 euro per impresa l'onere aggiuntivo dovuto alla criminalità. Un'altra tassa silenziosa pagata alla malavita a Reggio Calabria come a Milano. 13:42 minuti e 25 secondi, sabato 19 marzo, Potenza ospita l'annuale appuntamento di Libera in memoria delle vittime di mafia. Ma che cos'è Libera? Paola Ceretta ha intervistato per noi Don Luigi Ciotti. Lottare contro la mafia significa lottare per la democrazia. Che cos'è quindi la mafia? Quando parliamo di mafia è un crimine organizzato che per raggiungere i propri obiettivi, i propri affari, si avvale di parti del corpo sociale, di professionisti e certamente della complicità di segmenti della politica. Se no parliamo di crimine organizzato. La mafia è quella cosa lì e quindi noi dobbiamo fare in modo di tirare fuori le nostre unghie per fare la nostra parte come singoli cittadini, per quello che ci riguarda, che la voglia comincia dal conoscere, dall'esserci, dall'organizzarci, il giusto sostegno alla magistratura, alle forze di polizia, che loro fanno la loro parte. E poi dobbiamo chiedere le politiche sociali, gli interventi culturali, perché è la cultura che deve svegliare le coscienze. Cosa sono le illusioni perniciose? Beh, sono le parole di Paolo Borsellino, che ha pronunciato nel momento di successo del contrasto a Cosa Nostra, svolta storica nel nostro paese. E in quel momento lui parlò di non farsi delle grandi illusioni, ma che bisognava tenere alta la testa, dare continuità, coerenza, credibilità all'azione di contrasto. Fu un profeta, perché ci fu poi un allentamento di attenzione che porterà tra l'altro alla sua uccisione anni dopo. E quindi è un invito, io mi sono permesso di citarlo, in un momento come questo, dove la magistratura ci consegna tutti i giorni arresti latitanti, delle grandi operazioni, grande lavoro delle forze di polizia, di alcuni segmenti delle istituzioni, in un momento come questo vorrei che non calasse la tensione di fronte alla capacità, come abbiamo visto l'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, dalla grande capacità di rigenerarsi e di trovare dei modi di penetrare dentro le fessure del sistema nel nord, ma non solo nel nord del nostro paese. Vi saluta qui Daniele Biacchesi, ha condotto Italia in Controluce, due edizioni 6:30, 13:30, cercateci tutti i giorni su Facebook, su Twitter, su ogni diavoleria tecnologica, sul nostro blog radio24.it, via mail controluce@radio24.it, domani 6:30 con nuove storie, la voce, vi ricordo l'intervista a Giancarlo De Cataldo, l'autore di Romanzo Criminali, che racconta domani Roma.